sistemare e così metto a trasmettere musica in, in FM ogni tanto. Un passatempo PC, hai capito? Anche io lo uso per caricarmi cose, non lo uso per altro, non me ne frega niente a me di usarlo come lo usano gli altri. Mi piace parlare chi lo batte la volta e poi gli sto sempre in giro per farmi le passeggiate degli amici, capito? Ma già lo uso. Basta usarlo bene e con tutto il rende. Se lo usi male, uia. Io lo uso perché già mi piace trattarlo. Infatti ti potrei scaricare un po' di canzoni nei CD e te li vendemi a 5 euro uno CD. Ti fanno un po' di soldi, lo sai, ma te lo fai, ti fa giro gli amici e ti guadagni un bel po' di soldini. Cioè i soldi per farti una bella cena in ristorante. Ma non so, ma te ne ho CD. Ma, guarda me ne posso. E poi quelli che ho utilizzato in macchina li ho tutti rovinati, perché con la salta il lettore mi rovina i CD, capito? Lo so, secondo che radio c'hai e salta un bel, ti rovina i CD, sì. E voi, e voi, e voi. Basta che non sia gay e gai. E voi, o gai, este. E sono matissimo. Basta, c'è qualche giorno a casa e ti bevo qualcosa. Cosa? Ha passato qualche giorno a casa e ti bevi qualcosa, ho detto. Ehi, Antonio, sempre a casa, sì. Sono a casa, sì. Thank you. mezzo. No, ma per il calamare basta andare lì a Gozo, alla parte di dove c'è la marullina, dietro al mare aperto, riprende lo stesso. Già lo so, dove c'è il fast? È lì almeno riprendi e sono buoni, capito? Gava, e gava, gava. Io ho preso un po' di pazienza, un po', devi fare perché io dice muovendo. Se ne trovassi un metodo magari a farla andare a batteria. E ui. Un uso sarebbe. Ma calla, io ho bisogno di fare il mondo di rete, ci fra, ti avviso sì. Ma vuoi fare poco? Non so, ce l'avamo lì con io, guarda. Siamo andati a Pizzurri una volta, la bilancia 3 tacchi. Certo. 3 tacchi di Pizzurri, vabbè, ci aveva il punto nel costandale, ci aveva, ma nel GPS ci aveva il punto segnato, là, ce l'aveva letto un di Alghero, dove andare, che ritrovava, le ha lasciato la bandierina col galleggiante per vedere dove era il punto. Lei ti ricordi, devi andare sempre a mare calmo, perché quello è un pesce che non maremo se un pin. Ma non l'avevo mai visto, ogni abito di pesce, era pure maniato. Bello, ha fatto una bancata, la fotografia, l'ha messi tutti in fila sopra un tavolo, riempivo un tavolo lungo lungo di quelli che c'erano in campagna per fare seminari e cose, no? E l'ha messi tutti in fila e ha fatto la foto. Ah, di lusso al vero, Lo so. Allora, ma non c'ho più voglia come prima di andare a pescare, prima mi piaceva di più, ma sta scendendo la voglia di pescare. Poi adesso ho questo pensaggio, sempre male brutto ciò, capito? Ci ho buttato quasi 3 spatole americane l'altra volta. Cosa? Ma non vale la pena andare a pescare a verri. Secondo me i bocconi vanno meglio, li fanno infine, li mesi che sono micidiali. Il boccone avevo preso una tenuta bella, da 1,2 kg. Mi ha sembrato di trovare il boccone normale, no? Mi dice di tasto. L'ho presa bella, bella di banchina, mi è un pesce di fondale. E poi l'ho preso lo stesso. Ah, bocconi, grandi, sta questa roba qui, però sono più l'aspetto, quelli di Mifra. Ti fanno annoiare di più, invece il governo magari si mangia subito, ma... Ma lo verme, lo sai qual è il problema? Il problema è che tu, come lanci, se c'è roba piccola te lo rimuovi subito, capito? Sì, quello è vero, ma se intoppi roba grossa, come le unghie che pigliamo io, una dopo l'altra, che sono di 1,2 kg o 1,100 kg, tutte così. E vuoi trovarsi per la giornata adatta? Se trovi la giornata adatta va bene, ma allora non trovi la giornata che no, ci butti l'esca e basta. E quando cominci a prendere 4 di americani, 2 di bibi, sono già quasi 30 euro. E infatti, adesso prendere quelle scalie sono per gente che ha dinami. Diciamoci un chiaretto, non lo sai perché le prese, le perse hanno voglia di andare a pescare, perché hanno chiuso tutti i posti dove andavamo, e quindi noi li conoscevamo bene, poi se andavamo a corpo sicuro, andi sì, ma non sai, si piesi, non piesi, ci hanno detto, avevano parlato per il Porto Palma, se siamo andati a dire che ha mangiato un verme, nulla, niente. Per carità, mi fate così. Ma non c'è più niente già, guarda, no, sono soldi buttati e basta. Non c'è più come prima di roba, no? Prima si pescava bene, adesso non c'è più niente. Non avrai la candela, capito? Vabbè, lo so. Ma di notte io ho visto che qualche cosa si prendeva, si stava prendendo. Perlomeno, il periodo di agosto, luglio, agosto, quel periodo lì, stavamo prendendo. E sono andato anche con Salvini una volta, lì a Marinella, e abbiamo preso lo stesso qualcosa. Ehi, andare bene, Meda. Ma fra, non mi dicevi con questa antenna? Ma ti ascolto bene qua. Questa l'ho costruita io l'antenna, è piccolina, sarà nemmeno 1 metro, 75 centimetri. Ma così in macchina? E allora? Era come togliere centimetri dall'antenna da internet, guardi, metti come si chiama? Piero di Cimminox e ti dà anche i centimetri dello stilo, come ho fatto io, guardi i centimetri da lì e l'ho costruito, l'ho costruito, ho preso la carica della PVC 1000 che era stata tagliata in modo sbagliato e mi ho fatto quello. Meraviglia. No, io ho una piccina da 800 di quelle vecchie, poi c'ho una frustavera, poi c'ho una Winchester, sempre piccola, e una antenna. Ma la Winchester qual era? Quella che usava anche il robotto meccanico? La Winchester è quella che ci aveva montata la volanima di coso, di Rambo, in macchina. E quella lì, vabbè, quella è una buona antenna. Ma in macchina non ho più messo baracchino, devi mettere, staccare, mettere, piazzare, staccare, un travaglio. E vabbè, per chi ha la passione, per chi viaggia come me, è sempre meglio averlo. Beh, quello sì. Ma c'è anche il lineare da 8-8, c'è un lineare, un BV 150, da 8-8, anche quello. E se non c'è baracchino, c'è di quel lineare. Infatti, mi ha attaccato tutto, anche la testa, tutto uguale, però me l'ha fatto in un debole le matte. Mi, adesso oggi non accendo perché stavo sistemando, più c'era un problema su uno spezzone qua. Ho sistemato quello spezzone e stavo provando appunto come stavo andando. Ma boh, certe volte ci va, accendo, di giusto per farle funzionare questa radio, ma non ho più voglia di fare, di stare attaccato a questa radio. Poi adesso c'è il computer, c'è cos'è più il computer? Mi sto girando con tutto il computer, mi sto divertendo. Sono cose diverse però, a me piacciono tutti e due. Il computer lo uso lo stesso, però uso anche le radio. Certo, non più come prima, perché prima, diciamo, la passione c'è sempre, però adesso c'è poca gente, quindi sta entrando poco le cose. Se non senta nessuno, cosa entra a fare? Diciamo che non c'è più nessuno come prima, capito? Poi insomma, da quando c'è il computer, la gente si mette al computer, si diverte, io per la mano col computer mi diverto, ma va tutta le parti, capito? Ma il computer puoi fare tutto, da A a Z, tutto quello che vuoi, c'è una domanda da poni, gliela poni e ti rispondi. Certo che sì. Poi l'ho comprato nuovo, ho preso un portatile nuovo, un Acer. Un 5535, un 250 di hard disk, va bene, non ha mai problemi. Ragazzi, io mi sono preso l'Asus, è un buon computer, molto veloce, è uno schizzo più. Portatile o un fisso? No, io c'ho sia il fisso che il portatile. Allora c'è il portatile e il fisso, però quello che sto utilizzando io è il portatile, il fisso lo usa mia moglie, io uso il portatile. Anche perché col portatile me lo porto dove voglio, capito? Hai fatto. Te lo pagava. No, a casa il fisso solitamente lo usava mia figlia. E il fisso invece ce lo usiamo io e mia moglie, ma il portatile ce lo usiamo io e mia moglie, il fisso lo usa mia figlia. Non è nulla di nessuno, io se voglio andare a portatile vado a portatile, problemi non ce ne sono, posso usare sia l'uno che l'altro. Ma diciamo che il tempo è diverso, perché per il computer ne devo usarlo quando torno al lavoro, la sera o la notte, perché se no non ho tempo, non ne ho. E invece l'apparato posso usare anche da sdraiato e coso, sia la notte, sia dopo pranzo, sia quando sono in macchina, insomma, c'ho più tempo disponibile. Marco, ma non è che ti era rimasto quel connettore, me l'avevi dato quel connettore del Seat, di quella radio americana, o era attaccato al microfono, attaccato allo Bucat? Il Seat, ma qual era quella Jack? Ti ricordi, quello si staccava sempre, perché dovevo modificare e metterle quello a 4. Però mi serviva quello lì per avere le connessioni, non riesco a trovarlo. Ma qual era col microfono alla tastiera. Ehi, a te la metti. C'ero io qua non lo sto usando. No, quello con la tastiera l'ho trovato io del Sommer Camp. L'altra che mi hai dato tu la radio, quel baracchino, cazzo radio, baracchino. Quale? Quello civile? No, quello americano, 23 canali. Ti ricordi che c'era lo spinotto di quello a punta? Dove è rimasto lo spinotto? Tu ce l'hai o ce l'avevo io? No, ce l'avevi tu, te l'avevo dato assieme col coso, col microfono. Forse con trasloco e qualche cassetto riesco a trovarlo. No, perché sto facendo una base tutto baracchini, usando la KB23 col Tane più 3, poi lì girata con l'SBA, l'altro Tane più 2, il coso, il Salerta, e lì ci volevo attaccare il Salerta, però non mi ritrovo il connettore. Va bene, dai, che sono da Gigi, che stavamo parlando, adesso me ne vado a finire il giro, se no si è passato, devo andare ancora a sera. Io ti faccio sapere se non lo trovo, Fra. Ciao, buon proseguo, a dopo che vado a casa. Ciao. Comunque la mattinata 5 punte. Già non ricordo qual era, non lo so, dopo controllo se ce l'ho io. Ma si trova a comprarlo, Fra? Sì, da bussare, questa è una cazzata. Però devi sapere qual era, io non so qual era. A 5, no, non a 6, a 5. A 5 punte. Dai, vabbè, guarda, se non lo trovo passo a Fusaro, domani lo compro, dai. Vabbè, buon proseguo, a dopo, Fra. Ciao. Saluta anche a Luigi da parte mia. Ehi, ti saluta anche Luigi, dai, ciao. Ok. Oi, Antonè. Lo spinotto a 5 ce l'ho io, passa a 4, se la te lo prendi. A 5 di quelli hai messo, Antonè? Sì, uguale a quello che Pate cava, quello spinotto lì lo monta lì, perché 34 canali, il 340. Ce l'ho, l'avevo piato 04 io. Vieni, prenditelo, te lo prendi uno di quegli spinotti, ce l'ho qualunque qua io. Guarda, lo spinotto che montava anche il papà, il 5024. Un sacco di denti di ghiri. D'accordo, tienilo da parte, altrimenti ci sentiamo domani e... Faccio e me lo prendo, capito? Adesso guardo, ce lo trovo a casa io, ma se Franco mai trova me l'ha dato, deve essere sicuramente a casa. Non vuoi. Se sta lavorando, se lo vuoi passare quando stai salendo dal lavoro, passa direttamente qui. Fate lasciare il numero del telefono, se non sono a palacchino, mi fai uno scudo, faccio trovare giù, così te lo do e te lo porti a casa. D'accordo, Pompo, grazie. Ci sentiamo, dai che scappo. Ciao, riprendi Fra. Via, ciao Fra. Sì, lo stesso, praticamente Antonio, lo stesso spinotto che monta il Tocaggi 2024 e l'Intec 34 canali. E allora c'è quello che già va bene, ce l'ho. Assicurate lo prendi quando stai salendo da lavoro, così te lo utilizzi. Tanto io gli spinotti già piazzati e mi rimasto sentito questo, capito? Non c'è problema. Questa è una piazzata, faccio 4 centesimi in uno, cosa vado a posare? Passi qua, te lo prendo, lo regalo, non mi ha fatto tutto. Ce l'ho in più. E allora, Franco. Allora, Pomponio, ho trovato una cosa, Luca Cavalagari, l'altro giorno, vai, se ci vede, mi ha dato i saluti. Oh, ogni tanto lo vedo anch'io, ma non sempre. Da poco ho visto Carlo in via di Zeddo, in Gianuario, che sono andato via a bermi la birra. Cioè, frequenta lì qualche volta, a volte lo trovo anche a bare in via Angolo Deodorante, quello che c'è, via 4 Angolo Deodorante. L'ho trovato lì a Carletto, a volte lo trovo anche a Luca, se la sentite per i saluti. Ah, per questo, ma quel bar che c'è lì, vicino alla sala di gioca, il bar di Mario, sempre aperto. Sì, è sempre aperto, sono andato l'altro giorno, sono andato. A bermi la cosa, che sembrava di entrare dentro un freezer, quando si entrava dentro, in giubbotto, io ho mangiato a cotta, tutti quanti in giubbotto erano, non la voglio, tu c'è un freezer. Cazzo di vabbè, ma poca gente ci va, no? Io una volta sono salito da Nanni, giusto, a prendere un caffè, però visto che non c'è molta, prima c'era di più di anni fa. Dell'anno fa c'era un sacco di gente, c'era più divertimento, c'era Marco Tampone. lui, se per chi vi hanno fatto. Non c'è stato nulla, adesso va nel circolo che c'è qui a Trabonazzi, quasi all'angolo via con via Colavuzza. Ah, comunque, visto che non c'è molta gente, comunque c'è qualcosa, c'è di solito il sabato c'è più gente, perché c'è viene Boboreddu, Giovannino, quelli di Bono, a versi la prima poi dopo che hanno finito di bere la roba, di una volta sono già belli presi, vanno a fare il ciucucciù. Signori, va a carezzare, poi adesso non si può più bere, perché se si ferma è un casino con questa storia della patente. Allora, non lui si è fortunato, ci vanno i carabinieri, vabbè, quindi se proprio lo fanno, non ti può dire, perché se no si troverà a mazzi, capito? Ehi, ehi, a buon tu, oi, oi, un casino. Io ho fatto la revisione del patente la settimana fa, ho fatto tutto. Come va la revisione del patente? Era scaduto, ho fatto tutto quanto, ho dovuto fare tutto. Rivisionare, visita, tutto quanto. Poi mi ho fatto anche l'abilitazione, che non ce l'avevo. Ho speso quasi 110 euro di tutto, capito? Ma che vita si deve fare fra? Cosa? Ma tu c'hai la ciccia! Ho dovuto fare l'abilitazione perché sennò non potevo guidare con la patente solo, capito? Quindi ho dovuto fare tutto, proprio reazione, visita, tutto quanto. E più farmi fare un'altra patente. Io adesso ho due patenti praticamente, c'ho la patente della macchina, più c'ho la C e più c'ho l'abilitazione, un'altra patente a parte di buon codice fiscale, dai, la foto. CQC. E io? E un'abilitazione professionale, dai. Quella lì adesso ci vuole per tutti gli autisti. E poi ci vuole anche, come si chiama, la scheda, non c'è più il dischetto, no? Ci sono le schede per, vabbè, i nuovi cani, quindi. Lo so, ho visto, è così. Vabbè signori, dai, io vi saluto e vi chiudo, sto facendo delle cosette qua. Ciao Pompuglio, ciao Gianni, ciao Gaccario, Vulcano, Alvariello. Saluto e circolare a tutti, per me quel ritmo mentale, al limite riprendo più tardi. Ok, dai, ci stiamo ancora alcune cosette qua. Ciao, ciao Fra, ci sentiamo, sto chiudendo anch'io, va. Ciao Pompo, ci sentiamo. E io, ciao Fra. Ciao Gianni, ci sentiamo alle prossime. Sì. Avanti, bubu.